Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro quinto, versi 337-678. Sul monte Elicona, una delle nove muse racconta a Minerva la sfida canora cui le hanno provocate le figlie di Piero, la prima delle quali ha appena cantato magagne e figuracce degli dèi. E loro? Le muse? Racconta la musa. Affidammo l'incarico a una per tutte. Allora si alza Calliope e, una volta raccolti i capelli con un tralcio d'edera, tenta le languide corde col pollice, le pizzica e sugli accordi comincia a cantare così. Cerere è stata la prima a rompere zolle col vomere adunco, la prima a dar messi e gentili alimenti alla terra, la prima a dettare le leggi. Noi tutto dobbiamo a Cerere. È lei che voglio cantare. Voglia il cielo che quello che canto sia degno di lei. Lei, di certo, è degna di essere cantata. C'è un'isola vasta, Trinacria, gettata sopra il corpaccio d'un gigante. Con la sua mole enorme gravita addosso a Tifeo, quello che osò aspirare alle sedi celesti e ora si sforza tentando di alzarsi. Però la sua mano destra è bloccata da Capo Peloro, contiguo all'Ausonia, da te la sinistra, Pachino. Il Lilibeo gli inchioda le gambe, la testa è schiacciata dall'Etna. Sdraiato là, sotto il vulcano, sputacchia sabbia e vomita fiamme il bestione. Spessissimo si dimena per liberarsi dal peso della terra e scrollarsi di dosso città e immani montagne. Perciò trema il terreno e lo stesso re dei muti defunti teme che il suolo si squarci e il sole, irrompendo laggiù traverso il largo crepaccio, atterrisca le umbratili ombre. A evitare disastri del genere, dalla sua tenebrosa dimora era uscito il sovrano e sul carro tirato da nevi cavalli ispezionava con scrupolo lo zoccolo della Sicilia. Resosi conto per bene che non c'è una crepa, traccheggia tranquillo e così lo vede Venere dalla sua casa sul monte Erice e abbraccia stretto il figlio con tanto di ali. «Arma mia, braccio mio, mia potenza, prendi un po', gli fa, quelle frecce per cui, figlio mio, sei padrone del mondo, Cupido, mio amore, e spediscine subito una a piantarsi nel petto del Dio al quale fortuna ha assegnato il terzo dei tre reami. Hai pur messo sotto i celesti e lo stesso Giove e gli dèi del mare, e niente di meno chi comanda gli dèi del mare. Perché il Tartaro no? Perché non estendi i domini di tua madre e tuoi? Si tratta bene o male di un terzo del mondo. In cielo son questi i bei frutti della nostra bontà? Mi trattano con sussiego ed insieme al mio scema il prestigio di amore? Non vedi che Pallade e Diana alla Fromboliera? Non vedi che non mi trattano più? Anche la figlia di Cerere, se noi tolleriamo, ci resta vergine. È quello che vuole. Ma tu, se un po' te ne importa del nostro regno, la bimba divina uniscila a zio. Così Venere. Lui la faretra apre e per ubbidire a sua madre di mille saette ne seleziona una, ma la più aguzza, la meno imprecisa di tutte, la più docile al tratto dell'arco. Puntatolo sul ginocchio, curva il flessibile corno e con la punta del dardo colpisce il cuore di Dite. Non lontano dai bastioni di Enna c'è un lago d'acque profonde, chiamato Pergo. Nemmeno il Caistro sente sul brivido della corrente tanti cigni cantare. Un bosco corona il suo specchio e da tutte le parti lo avvolge, velandolo d'un fogliame che storna le fiamme del sole. I rami procurano il fresco, la terra un tripudio di fiori, perpetua la primavera. In questa radura Proserpina si diverte a cogliere o viole o candidi gigli, di cui riempie cestini e grembo con un puntiglio puerile, ingegnandosi a primeggiare su tutte nella raccolta. Vederla, innamorarsene, rapirla, perdite è tutt'uno, a tal punto è fulmineo l'amore. Atterrita, la piccola dea invoca con voce di pianto le compagne e la madre soprattutto. E poiché le si straccia della veste l'orlo, la veste si allenta e i fiori raccolti le si versano tutti per terra. E tanta è l'ingenuità del suo cuoricino di vergine che l'incidente dei fiori aggiunge dolore a dolore. Lancia il carro il dio rapitore e sprona i cavalli chiamandoli uno ad uno per nome e scuotendo sui colli e sulle criniere le briglie colore della ruggine e della tenebra. Vola su un lago profondo, sui pantani dei due palici che puzzano dello zolfo che bolle nel suolo crepato. E vola là dove gli esuli da una Corinto bagnata da due mari hanno eretto mura su due porti sproporzionati. Fra la fonte Ciane e la fonte Aretusa, oriunda dell'Elide, c'è un braccio di mare incluso fra due strette lingue di terra. Qui abitava, e la fonte e lo stagno presero nome da lei, Ciane, la più famosa fra le ninfe della Sicilia, la quale, affiorando dal centro dell'acqua fino alla vita, riconobbe la piccola dea e disse «Di qui non si passa. Tu non puoi essere genero se lei non vuole dicerere. Chiederla, non rapirla dovevi». Anch'io, se rapporti piccole a grandi cose, sono stata amata da Anapi e l'ho sposato perché mi pregava, non come lei, per la paura. Ciò detto, spalanca le braccia, tentando di fermarlo. La rabbia del figlio di Saturno è irrefrenabile, frusta i tremendi cavalli, brandisce con braccio possente lo scettro regale e lo scaraventa giù fino al fondo della laguna. La terra al colpo apre un varco per l'Ade, dove si avventa il carro ed il cratere lo inghiotte. Ciane allora, piangendo la dea rapita e i diritti della sua fonte violati, porta una piaga nel cuore inconsolabile e si consuma in lacrime mute, squagliandosi tutta in quelle acque di cui fino allora era stata la divinità. Avresti visto gli arti morbidi farsi, le ossa farsi flessibili, le unghie farsi mollicce. Sono le parti del corpo più esili, le prime a liquefarsi, i capelli azzurri, le dita delle mani e dei piedi, le gambe. Infatti, per ciò che è sottile, il transito ad acque gelate è più rapido. Poi sono le spalle, la schiena, i fianchi, sono i seni, a svanire in tenui rivoli. Infine, nelle vene slabbrate, in luogo del sangue vivo, c'è acqua che scorre e in mano di lei, se la afferri, non resta nulla. Intanto la madre, allarmata, va cercando invano sua figlia per tutte le terre, per tutti gli sprofondi del mare. Né l'aurora che spunta coi capelli bagnati l'ha vista desistere, né l'ha vista Vespero. Accese nell'Etna due torce di pino, le porta una per mano, vagando senza posa, in angoscia per entro la notte brumosa. E quando il giorno sbiadisce le stelle, continua a cercare la figlia, da dove sorge il sole a dove tramonta. Sfinita dall'ansia, assetata, non trova una fonte in cui bagnare le labbra finché non vede per caso un capanno col tetto di paglia e bussa alla piccola porta. Si affaccia una vecchia e porta alla dea, che le chiede acqua da bere, una bevanda dolce da inzupparci polenta tostata. Mentre beve la dea, un ragazzo dall'aria proterva le si piazza davanti, sghignazza e le dà della spugna. Lei si offende e, senza smetter di bere, a lui che insiste versa addosso l'intruglio avanzato con la polenta dentro. Si chiazza la faccia del giovane e quelle che erano gambe sono diventate zampette. Una coda si aggiunge al corpo alterato e lui si è ridotto, in modo da rendersi meno molesto, piccolo più del più piccolo lucertolino. Sgrana gli occhi al prodigio la vecchia e piange e fa per toccarlo, ma quello scappa a nascondersi. Il nome che porta, geco o stellione, ricorda quant'è costellato di macchie. Per quante terre e per quanti mari vada errando la dea, sarebbe troppo lungo da elencare. Ha esaurito il mondo. Ritorna in Sicilia e nell'ostinarsi a esplorarla, ecco arriva da Ciane, che fosse quella di prima, racconterebbe tutto, ma non ha più né bocca né lingua per dire quel che vorrebbe. Non può formulare una sola parola. Tuttavia può fornire un indizio evidente e ben noto alla madre, esibendo a fior d'acqua la sciarpa che, guarda caso, giusto in quel punto Persefone si era persa nel sacro fonte. Appena la riconosce, come solo allora capisse del rapimento, la dea si strappa gli sciatti capelli e non la smette di battersi il petto con ambo le mani. La figlia non sa dove sia, ma tutte le terre del mondo maledice, ingrate le chiama, indegne del generoso grano, Trinacria su tutte, dove ha scoperto le tracce della figlia perduta. Allora spietatamente frantuma gli aratri che voltan le zolle, mette a morte coloni e buoi da lavoro in preda alla collera, ordina ai campi di deludere ogni speranza e contamina le sementi. La fertilità della terra, famosa per tutto il mondo, è sbugiardata. Il grano muore appena spigato o per eccesso di sole o per pioggia eccessiva. Sono ostili le stelle e i venti, uccelli ingordissimi piluccano i semi nei solchi, il l'olio, le spine dei rovi, la gramigna che non si strappa soffocano il frumento. Allora Aretusa estrae dal flusso che viene dall'Elide la massa dei suoi capelli grondanti, dietro agli orecchi se li tira e dice: «Madre di Vergine ovunque cercata, madre dei nostri raccolti, abbandona l'immensa fatica, non infierir sulla terra che ti è sempre stata fedele. Non lo merita, ha condisceso al ratto perché costretta, e non peroro per la mia patria, sono ospite qui. La mia patria è Pisa, nell'Elide le mie radici. In Sicilia risiedo come straniera, ma questa regione mi è più cara di tutte. Di Aretusa i penati son questi, la mia casa è questa, ti prego, dolcissima, tienla da conto. Come mai, traslocata per tanto tratto di mare, io sia giunta all'isola Ortigia? Forse sarà meglio te lo racconti in altra occasione, quando sarai meno agitata ed avrai un viso un po' più sereno. Per darmi il passo, la terra mi si apre. Io mi infilo in caverne segrete ed eccomi qui che affioro a vedere stelle che stavo per dimenticare. Così, scivolando sottoterra nel fango di Stige, ho visto con i miei occhi la tua Proserpina, triste, d'accordo e con lo spavento ancora impresso sul viso, ma regina pur sempre, signora del mondo delle ombre, pur sempre potente consorte del re dell'inferno. A sentire queste parole la madre rimane di sasso, immobile, come colpita dal fulmine, finché subentra al tremendo smarrimento Un dolore tremendo salta sul carro e si avventa per gli spazi del cielo. Lassù, la faccia aggrondata di nuvole, i capelli disciolti, cieca di rabbia, si pianta davanti a Giove e sillaba: «Giove, per il mio sangue son qui a supplicarti, che anche tuo sangue. Non ti commuove questa madre? Commuoviti almeno per tua figlia, e se a partorirla sono stata io, non curartene di meno, te ne scongiuro». Dopo averla tanto cercata, l'ho ritrovata, mia figlia, se ritrovarla vuol dire esser certa di averla perduta, tutt'al più sapendo dov'è. Chi ce l'ha rapita, perdono, purché ce la renda. Tua figlia non merita un delinquente per marito, quand'anche lo meritasse, per essere mia. «La figlia che ho avuto con te è un onere per tutti e due», dice Giove. «Un onere e un pegno di affetto, ma se vuoi chiamare le cose col loro nome, non d'un delitto si tratta, ma di un atto d'amore. Ne avremo di che vergognarci d'un genero come lui se tu, dea, non ti impunti. Non avesse altro titolo è sempre fratello di Giove, e altri titoli non gli mancano. Anzi, io ne ho più di lui solamente per un capriccio del fato. Comunque, se tanto ci tieni a dividerli, rivedrà Proserpina il cielo. Ha un patto, però, che laggiù non abbia portato cibo alla bocca. Questo è quanto pattuito con le orride parche». Disse, ma se Cerere conta di riavere sua figlia, i fati non lo consentono, in quanto sua figlia ha rotto il digiuno. Girando distrattamente per i giardini, aveva colto da un ramo spiovente un frutto granata e 7 chicchi, sbucciatili della pellicola trasparente, se n'era schiacciati in bocca. Il solo a vederla era stato a scalafo, a quel che si dice Orfne, fra tutte le ninfe d'Averno non la meno famosa, incinta del suo Acheronte, lo aveva dato alla luce nel buio dei boschi. La vide e, spietato spione, ne compromise il ritorno. Pianse, ah sì, la regina dell'Erebo, e trasformò il delatore in un uccello sinistro. Spruzzandogli in testa l'acqua del Flegetonte, un becco ne cavò, piume, occhi grandissimi. Quello privato di sé si fascia d'ali rossastre, la testa gli si ingigantisce, gli si allungano e curvano le unghie, muove appena le penne spuntate su braccia mosce e diventa l'uccello schifoso del malaugurio, un torpido gufo, presagio funesto per noi mortali. Potrebbe peraltro sembrare che con la sua lingua lui si sia meritato il castigo, ma figlie dell'Acheloo, come mai quelle piume e pinne d'uccello e quei visi di vergini? Non sarà che quando Proserpina, dotte sirene, coglieva fiori di primavera, eravate della partita? Che dopo averla cercata invano su tutte le terre, per far sapere anche ai mari tutta la vostra angoscia, avete chiesto la grazia di poter volitare, rasente le onde coi remi delle ali, e condiscendenti gli dèi vi siete viste le membra dorarsi di penne improvvise? Ma perché a un canto fatto per carezzare gli orecchi e da bocche di tanto talento non venisse a mancare il suono della parola, vi han preservato voce umana e viso di donna? Arbitro tra fratello e afflitta sposa sorella, Giove divide in due parti uguali il corso dell'anno. E adesso la dea che esercita il potere su un doppio regno, tanti mesi sta con sua madre, tanti con suo marito. E subito cambia d'umore e d'aspetto e di discorso, tant'è quel viso di dea che anche a dite pareva fin troppo triste, si illumina come un sole aggrondato di nuvole gonfie di pioggia quando si affaccia fra nuvole in rotta. Cerere, il cuore in pace per aver riavuto sua figlia. Ora vuol sapere perché sei fuggita, Aretusa, e perché ti sei fatta sacra sorgente. Tace l'acqua, e dal fondo affiora la dea con la testa, si strizza fra le mani i capelli verdi e racconta così l'antichissimo amore del fiume dell'Elide. Ero una ninfa, una delle tante ninfe d'Acaia, ma come me nessuna si studiava i boschi, nessuna si studiava il piazzamento, come me, delle reti da caccia. E sebbene io non abbia mai puntato sulla bellezza, sebbene fossi potente, passavo per essere bellissima. Ma non mi importava niente di quelle lodi eccessive, anzi, di doti cui tengono tutte, mi vergognavo, convinta, brusca com'ero, che piacere fosse una colpa. Tornavo, ricordo, spossata dal bosco dello Stinfalo, c'era un caldo tremendo, aggravato dalla stanchezza. Trovo un corso d'acqua che non fa vortici, che non borbotta, così trasparente che avresti potuto contargli sul fondo i sassolini, che non pareva nemmeno scorresse. Pallidi salici e pioppi nutriti dall'acqua versavano sul clivio delle due sponde la più naturale delle ombre. Mi accosto e per cominciare intingo la pianta dei piedi, poi sussù fino al ginocchio e, non contenta, mi sciolgo le morbide vesti, le appendo ai rami curvi di un salice, mi immergo nuda nell'acqua e la fendo e me la abbraccio in mille figure, estraendo e rituffando le braccia. Quando avverto non so che brusio dal fondo della corrente e spaventata mi arrampico sulla riva più prossima. «E dove scappi, Aretusa?» mi dice Alfeo dal suo letto d'acqua. «Dove scappi così?» con voce rauca ripete. Così com'ero scappo senza vestiti, i vestiti erano sull'altra sponda, tanto più si accanisce a inseguirmi e, nuda come mi vede, gli sembro meglio a portata. Tanto io corro, tanto lui mi incalza selvaggiamente, come colomba fugge con trepida ala sparviero, come sparviero bracca trepidante colomba. Fin sotto Orcomeno, fino a Psofide, fino al Cillene, ai crepacci del Menalo, ai ghiacci del Rimanto, all'Elide riesco a correre e lui non è più veloce di me. Ma a continuare la corsa non ce la faccio più. C'è sproporzione di forze, regge meglio lo sforzo lui. Però correvo lo stesso per campi aperti, per monti boscosi, pietraie, rocce e per dove non c'era un passaggio. Ho il sole alle spalle e vedo lunga davanti ai miei piedi precedermi l'ombra, sempre che a vederla non sia la paura. Ma il suono dei passi che mi atterrisce è sicuro, sicuro il soffio enorme che gonfia la benda dei miei capelli. Stremata da quella fuga, aiuto, dico, mi prende! Diana, aiutala tu, la scudiera cui tante volte hai fatto portare il tuo arco e le frecce nella faretra. La dea si commuove e, staccata da uno spesso banco una nuvola, me la getta addosso. Coperta dalla nebbia, Alfeo mi cerca girando senza capire intorno alla nuvola concava. E un paio di volte capita davanti a dove sto io nascosta e un paio di volte mi chiama «Aretusa, Aretusa!» E io, poverina, che penso? Non sono l'agnella che sente i lupi che ringhiano trotterellando intorno allo stabbio o la lepre che, accucciata sotto un cespuglio, spia i musi minacciosi dei cani e non azzarda la minima mossa. Ma lui non si sposta. Infatti non vede impronte di piedi da qualche altra parte e perciò piantona la nuvola e il posto. Mi sento sotto assedio. Un sudore di ghiaccio mi copre le povere membra e da tutto il corpo sgocciolo azzurro. Dove sposto il piede si forma una pozza. Rugiada mi cola dai capelli e presto, più presto di quanto ci metto a ridirlo, divento acqua. Ma il fiume subito riconosce in quell'acqua l'amata, lascia l'aspetto di uomo, torna l'acqua che era per mescolarsi con me. Diana incide la terra e, immersa in cieche caverne, arrivo ad Ortigia. Ortigia, da me prediletta nel nome della mia dea, mi riporta sotto la volta del cielo. Così Aretusa aggioga una coppia di draghi, la dea della fertilità, li costringe col morso in bocca, li lancia fra cielo e terra, finché non si porta nella città di Atena col suo Calesse e lo consegna a Trittolemo, disponendo che semini i semi che gli affida, parte su terre incolte, parte in terreni appena rimessi a coltura. Sorvolate in pochissimo tempo Europa ed Asia, il ragazzo prende terra in Scizia. Sulla Scizia regnava re Linco. Trittolemo va nel palazzo del re. Gli domandano come ha fatto a arrivare, perché questo viaggio, come si chiama la sua patria. Mia patria, dice, è la famosissima Atene. Mi chiamo Trittolemo. Non son venuto in barca per mare, né a piedi su terraferma. Mi si è schiusa la via del cielo. Porto doni di Cerere che, sparsi sui grandi campi, vi renderanno messi abbondanti e frutti maturi. Il barbaro, morso d'invidia che tanto benefattore fosse quell'altro, lo ospita in casa e, quando lui dorme, l'aggredisce col ferro, ma mentre sta per piantarglielo nel petto, Cerere in lince lo muta e comanda al giovane ateniese di decollare con la sua sacra pariglia. Così la più brava di noi terminò il suo dottissimo canto, e così le ninfe concordi proclamarono vincitrici noi dee dell'Icona. Ma le altre non accettano la sconfitta e passano agli improperi. Visto, dice Calliope, che quello che meritate per averci sfidato non basta, e ci caricate gli insulti, basta. La nostra pazienza ha un limite. Ci spingeremo fin dove ci porta la collera. Sghignazzano le macedoni e irridono le minacce. Vorrebbero dire qualcosa e metterci urlando insolenze le mani addosso, ma vedono penne spuntare di sotto le unghie, le braccia coprirsi di piume, e vedono l'una in faccia all'altra spuntare un becco rigido, e insieme si vedono uccelli mai visti volare tutte nel bosco. Nel tentativo di battersi il petto, agitando le braccia, restano appese per aria, schiamazzo dei boschi, gazze, che svolazzando conservano ancora la vecchia facondia, le loro chiacchiere roche e quella mania di parlare.